I conti della Belva di Carlo Alberto Carnevale Maffè e Oscar Giannino. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, buon sabato mattina, un po' ruvido come sempre vi siete abituati, spero, e soprattutto vi aggiungerete ad ascoltare questa compagnia dei Conti della Belva. Carlo Alberto Carnevale Maffè, Mario Seminerio e Oscar Giannino, che vi salutano e immediatamente vi comunicano su che cosa intervenire all'800240024 con le vostre telefonate e con i vostri sms al 349-238-6666, più naturalmente sui social. È un po' di Twitter, chiocciola Conti della Belva, scriveteci, dai, cioè, ormai siamo alla ripresa, 0,1 Mario, 0,1, ma son numeri, io non capisco il vostro pessimismo, io mi dimetto ufficialmente da gufo oggi, ecco, con questo 0,1 illuminante. Torna illuminante, la crescita, magari mi crescono anche i capelli, Oscar, la crescita. Qui 0,1% di crescita pilifera. Esatto, siamo ricchi. Ragazzi, guardate che tutti i giornali italiani, con qualche eccezione, devo dire, stamattina dicono che a questo punto è andata, ragazzi. È andata. È finalmente lo spread del 800. Testa, però, i tedeschi hanno votato gli aiuti ai greci. Esatto. Tutto è positivo. Ma poi anche le opinioni sono il 94%, Mario. Io mi domando anche 94%. Tu. 94%. La fiducia delle imprese. Ecco, è il 94%. No, non lo è meno so, 6 rispetto alla... No, è più 94%. Capisci? Esatto, siamo al renzismo algebrico. Esatto, sì, sì, assolutamente. Adesso però se non spieghiamo che stiamo parlando di un indice, di una percentuale, chi è un indice che è basato 100 nell'anno base 2005, valore 100 vale 94, quindi le condizioni sono ancora inferiori. Peggiori, esatto, c'è stato meno 6, non sono più 94. No, ma vedo che c'è stato qualche trombettiere di lungo corso di altre ere geologiche della di propaganda, del esatto, che va, ha detto bene, fiducia dell'impresa al 94%, quando allora, arrivano a 100 hanno il nirvana. Allora, intanto, oggi di che cosa parliamo? C'è un vastissimo blocco che, in nome del fatto che è iniziato finalmente la grande ripresa, quindi tutto sarà risolto, però si occupa di alcune questioni fiscali e quindi noi ci chiederemo e vi chiederemo, ma avete avuto l'impressione forse dal caso di Gino Paoli, grande cantautore, e dai nomi citati da Soria, l'ex organizzatore del premio Grinzane a Torino, che si è beccato una bella condanna, di autorevoli uomini dello spettacolo, del giornalismo, della comunicazione, accusati di evasione fiscale, ma di sinistra. Ecco, avete avuto l'impressione che sono stati trattati diversamente dai grandi nomi che vengono massacrati se non sono di sinistra? Questa è la prima domanda, perché dice della, per così dire, dell'attitudine culturale con il quale guardiamo a questo fenomeno. Io per esempio ho avuto questa impressione, però naturalmente è ammessa ogni opinione, naturalmente ne parleremo con un esperto, per così dire. E poi sempre sul fisco, ma seconda questione, vi hanno detto anche qui che è finito il segreto fiscale in tutto il mondo, non ci sono più paradisi fiscali, la Svizzera si è arresa, Liechtenstein si è arreso, tutti capitolano, pare che capitino agli accordi col nostro governo, ma domanda, arrivano davvero questa pioggia di miliardi adesso per cui non ci dobbiamo preoccupare più di niente perché tutto rientra nel nostro paese, perché è impossibile avere accoglimento dei propri capitali in paesi a minor, più bassa pressione fiscale? Sarà così? E allora a questo punto ci dimentichiamo davvero le clausole di salvaguardia fiscale nel 2016, 2017, 2018 per 16, 26, 28 miliardi? O che cosa dobbiamo temere da quelle sul futuro dei nostri consumi? Un'altra bella domandina. Poi l'Agenzia delle Entrate torna a fare appello alle delazioni anonime, dice che è un istituto anglosassone, i whistleblowers. È veramente così? Cerchiamo di capire se la delazione anonima sia il concime con cui le autocrazie religiose e politiche alimentano, per così dire, il consenso di sudditi tremebondi, o se sia una cittadinanza attiva esplicita del modello anglosassone. Guarda, è un invito a fischiettare. Vabbè. Comunque, c'è tutto questo bel blocco di questioni fiscali. Poi giriamo pagina e andiamo a un'altra questione in cui questa settimana si è molto arroventata, dopo il disegno di legge del governo sulla concorrenza. Notai protestano molto duramente, sono dominato sui social con una campagna rottama alla tutela, perché dicono la caduta di un regime di esclusiva per le loro controfirme, per i loro atti, soprattutto nei rogiti, nelle compravendite immobiliari non residenziali, questa cosa è un favore fatto alle banche, agli avvocati, ed è soprattutto un abbassamento delle tutele di legalità. Allora, questa è un'accusa molto forte, vale la pena di essere esaminata, avremo un notaio che difende e vi spiega questo punto di vista, avremo anche un contropunto di vista e chiediamo anche a voi di dirci come la pensate. È una difesa corporativa o c'è davvero una difesa della legalità, perché loro sono non una parte terza ma lavorano in realtà per lo Stato da professionisti? Ecco, vedremo anche questo. E poi alla fine due vicende italiane, lo sapevo, ecco, tra le altre cose ci siamo tutti dimenticati che alcuni anni fa le compagnie di assicurazioni hanno potuto incassare, cioè hanno potuto fregarsi i premi di polizza vita versati da gente che era morta. E se gli eredi non li hanno richiesti entro due anni, hanno incassato tutto. Ecco, di cose di questo genere è fatto il singolare andamento della legislazione italiana. E prima erano 10 anni, poi improvvisamente un giorno si disse 2 anni, boom! E naturalmente a quel punto chi ci ha perso, ci ha perso. Allora, iniziate intanto a decidere di telefonare o meno 800 24 00 24, ma intanto un rapidissimo altro giro per dire che cos'altro vi ha fatto arrabbiare in questa settimana. A me fa arrabbiare che il governo butti giù dalle torri la legalità in questo paese quando si tratta di fare un po' di capitalismo finanziario. A me questa storia qui, che il governo ricorda che una premessa al margine di un decreto del Presidente del Consiglio è a vigore di legge. Stai parlando della vicenda di Rai Way. Sì, esatto, sto parlando della vicenda di Rai Way, dove il governo 24 ore dopo che è successo il finimondo in borsa per questo qua, ricorda con una nota cortese verso le 6 di sera del giorno dopo che c'è una noticina in un decreto e che impedisce di vendere Rai Way a terze parti, perché bisogna garantire, capisci, la continuità del servizio pubblico. Se non va in onda, chi l'ha visto, come facciamo? Allora, perché chi sia in ascolto non pensi che noi siamo come subito al soldo di qualcuno, cioè di Mediaset, vi invitiamo a compulsare Mediaset. Il prospetto informativo, quello dovuto al mercato, all'atto della quotazione di Rai Way, e troverete che nel prospetto non c'è traccia dell'indicazione del DPCM, cioè del decreto della presenza del Consiglio dei Ministri, che dice resta al 51%, ma invece si dice esplicitamente che la funzione attribuita a Rai Way, cioè gli impianti di trasmissione, può essere esercita da Rai tramite società, non c'è scritto controllate, ma c'è scritto partecipate, perché si fa chiaramente appello al mercato, ai capitali privati, metteteceli, perché se ce li mettete diventerà poi... Esatto, secondo me questo è danno erariale, io però, dico con estrema chiarezza, il governo però, non può impedire... Aspetta, Mario, però voi sapete, sì, meglio di me, non per fare il comunista dell'antitrust, che, voglio dire, stiamo parlando di una società che trasmette contenuti, Mediaset, e avrebbe anche il controllo delle torri, cioè delle reti. Ora, siccome noi siamo sedicenti liberali e tendiamo a spacchettare la proprietà, certo, tra il contenuto e il contenitore, richiamo anche un interessante articolo di Michele Polo sulla voce.info che dice esattamente questo, e lo sposo, nel senso che secondo me semplicemente anche che il prospetto di quotazione di Rai Way non contemplasse quello, stamattina c'è un articolo della Gabanelli sul Corriere che dice una cosa diversa, però diciamo siamo nell'ambito delle interpretazioni, ma io l'ho riletto, ma comunque sia diciamo non esiste che una società che è content provider possa avere anche la rete, almeno per quanto mi riguarda, in uno schema di antitrust classico, ma magari anche un po' obsoleto. Comunque sia, se lo fosse, è ovvio che bisognerebbe mettergli degli obblighi di apertura a selezione di saggi. L'obiezione è previa, capisci? Qui si dice non si vende, non la compri. Però il problema è che, come voglio dire, come io l'ho scritto 5 minuti dopo, qui c'è un enorme problema nel nostro paese che riguarda l'arretratezza del sistema televisivo da una parte e l'arretratezza di tutto il sistema delle TLC dall'altro, bloccato sul fatto che ogni player ha i suoi impianti di trasmissione, non li cede, non li conferisce a un soggetto o uno o due, ma capaci di fare sinergia e ottimizzazione, cioè di investire, e per questo fatto, siccome ogni player televisivo e delle TLC se la passa maluccio sul mercato domestico e quindi ha poco da investire, noi non abbiamo avuto soggetti capaci di fare quel balzo in avanti della capacità trasmissiva integrata. Questo riguarda la rete Telecom, tanto è vero che guarda caso oggi gli italiani scopriranno sui giornali che il governo ha intenzione di fare un decreto per fare lo switch off e quindi per dire al signor ex monopolista del rame Telecom: guardate che entro pochi anni la vostra rete in rame ha finito di darvi dei bei regaloni da ex monopolisti. Questo è il problema. Il problema è una gestione industriale sinergizzata degli impianti di trasmissione. Separati così come sono semplicemente l'espressione del fatto che ogni content, come dici tu, provider, difende la sua nicchia. Hai ragione. ragione a dire che bisogna avere uno schema di garanzia dell'accesso universale di tutti i player, ma il problema è che così noi confondiamo il Berlusconi sì, Berlusconi no, con l'assenza di una visione di questo tipo. La può fare lo Stato se hai soldi e la voglia? No, grazie. Ecco. No, che lo Stato faccia l'elettricista, scusate, grazie. Però ammettiamolo, in teoria è possibile. Mediaset compra e poi fa uno spin-off, mette sul mercato il 51% esatto. E la piantiamo lì. Perché stiamo impedendo al mercato di funzionare? Qui non, però non è Mediaset, capito? Io non ho citato Mediaset. Qui il governo dice non si Mediaset vende Mediaset lancia un'OPA, scusa, ma Mediaset mette in ballo legali e milioni di euro di fees di legali per apprestare un prospetto di un'OPA quando dall'altra parte si sente dire no perché dobbiamo avere il 51%? Cioè, che cosa ci sta dietro questo tipo di ragionamento? Ci sta dietro due cose, secondo me. Primo, il farsi dire no politicamente, così Berlusconi torna al vecchio schema. A. B. Però sono riusciti a far scoppiare il problema evidente dell'arretratezza dello schema dell'architettura trasmissiva prima che uscisse il decreto del governo che dice alla Telecom. Cioè, si sono infilati in un problema che esiste davvero, al di là del Berlusconi sì, Berlusconi no. Ma come vedete, i punti di vista sono diversi, perché il liberale, comunque, ha ragione Mario, non può dire c'è un monopolista del contenuto dell'infrastruttura. Dall'altra parte, Rai che dice però noi restiamo pubblici e facciamo finta di non vedere che c'è un enorme problema di sinergie da mettere insieme e riguardano appunto anche la rete di Telecom e così via, questo è evidente. Nel frattempo i russi di Wimpercom hanno venduto 7200 torri e li hanno venduti gli spagnoli di Albertis per 1 miliardo, proprio perché il problema esiste. Bene. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì. I conti della Belva. Di cui tornate in diretta dallo studio dei conti della Belva. Carlo Alberto, Mario e Oscar, iniziamo con questo primo blocco fiscale, ma fatemi dire ancora una parola: schifo, sdegno per l'assassinio a colpi di pistola a Piazza Rossa a Mosca ieri di Boris Nemtsov. Boris Nemtsov era una figura, secondo me, promettente per la Russia di domani, un liberale vero che faceva campagne coraggiose, che denunciava le pressioni improprie sulla libera informazione del regime di Putin e le incredibili ruberie degli oligarchi intorno a Putin. È stato ucciso a pistolettate. Mediti chi dice che la Russia di Putin è il modello da seguire o la partnership da coltivare. Si regola a pistolettate il problema con chi osa obiettare. Chiusa parentesi, ma andiamo al primo blocco di osservazioni e di riflessioni sul caso fiscale. Parliamo dell'aspetto culturale, per così dire, perché insomma queste ultime 2 settimane hanno offerto un bel po' di spunti e cominciamo con la vicenda di Gino Paolo, presidente della SIAE, uno dei più grandi inventori di una maniera nuova di cantare negli anni 60 e 70, dei testi meravigliosi, eccetera, eccetera, dichiaratamente di sinistra, anche un'esperienza parlamentare, ed esce fuori che insomma c'è un'indagine per conti all'estero, ai giornali come sempre arrivano, è il liberale qua un po' rabbrividisce, le intercettazioni fatte nel suo studio dell'avvocato in cui dice no, ma io non deve uscire questa cosa qua, del resto le intercettazioni, siamo anche a pubblicare le intercettazioni della moglie di Bossetti nel parlatorio del carcere prima del rinvio a giudizio, ma comunque metodo che questo si applica a tutti, sbagliato ma per tutti, però quando poi esce fuori il caso, insomma, non è che si assiste a una modalità analoga a quella di altri grandi nomi, c'è un po' di esitazione perché Gino Paoli fa chiaramente intendere chi osa dire qualcosa io gli spacco la faccia. Ecco, qui lo abbiamo Radio 24, l'ho anche pescato per telefono Gino Paoli, e qui abbiamo un file per sentire un secondo come reagisce Gino Paoli. Paoli, sono Parenzo, Radio 24. Volevo chiedere, si sente trattato come un criminale in tutta sta vicenda? Come? No, volevo capire se si è sentito un po' trattato come un criminale, vista tutta sta vicenda, la Guardia di Finanza, le perquisizioni, le cose. Cioè, uno come lei, un cantautore, un... Beh, ma a che proposito? Non ho capito. No, a proposito della vicenda della supposta evasione fiscale, delle indagini che ci sono state. Quello si vedrà poi. Ma come si è sentito, però? Cioè, penso che potrò chiarire tutto e che la giustizia farà il suo corso, tutto lì, punto basta. Tutto sì, qua. Ma questa cosa qui della finanza in casa, le contestano 2 milioni di euro in Svizzera, cioè come si sente? Lei è un simbolo della canzone italiana? Mi dispiace, ma io non voglio commentare assolutamente questa cosa. Ma ce l'ha il conto in Svizzera però? Ecco, la domanda, ce l'ha il conto in Svizzera, cade la linea. E non c'è stato solo il caso di Gino Paoli, perché un altro caso, trovate gli approfondimenti se andate su sito di Radio 24, programmi, schede programmi, conti della Belva, lì come sempre abbiamo messo tutti i documenti di cui stiamo parlando, trovate i documenti per approfondire anche sui nomi citati da Soria, il grande organizzatore Gino Soria per anni di questa kermesse culturale, premistica, il premio Grinzane, da cui tutti correvano intellettuali italiani, politici eccetera eccetera, si è beccato una signora condanna perché gestiva le finanze del premio come una sua cassaforte personale e insomma a questo punto, non avendo più nulla da perdere dopo una condanna a 14 anni, Soria ha iniziato a dire, ma per esempio gente come Augias veniva pagata in nero, era mostre di avidità e così via, naturalmente ha fatto lo stesso ragionamento per finanziamenti alla politica e così via, anche in questo caso i nomi citati come Augias sono volati via, né nessuno ha approfondito il fatto che era evidente nel materiale che riguardava Gino Paoli, il fatto che pagamenti nero venivano per esempio regolarmente da tutte le volte che andava alle feste dell'Unità a parlare. Non abbiamo visto da questo punto di vista particolari approfondimenti, per così dire. Allora la domanda diventa, ma se sei di sinistra e ti accusano di evasione, meriti un trattamento diverso se sei sospettato invece di essere di destra, oltre che di evasione? Non so, domanda forse un po'. Voi che dite? Ma sai, io è difficile che chieda parità di linciaggio, no? Per cui se ce n'è di meno, tutto sommato va bene, chiedo di meno anche dall'altra parte, invece che chi chiedere di più, non gioco al rialzo del linciaggio, cioè parità di linciaggio per tutti. Personalmente ritengo che intercettazioni di questo genere siano una vergogna della nostra Repubblica e che questo genere di informazioni debba prima fare il suo corso. Cioè, ciò detto è oggettivo e dobbiamo riconoscere che ci sono dei privilegi, no? Ci sono delle eccezioni culturali, ci dice un simpatico ascoltatore qui, dice: ma per Gino Paoli vige l'eccezione culturale, no? Forse ha ragione, Mario. Ma che dici? Può darsi, comunque effettivamente a me ha colpito, l'avevo già segnalato la settimana scorsa, il doppio pesismo, no? Abbiamo la settimana scorsa l'ha incarnato Grillo dicendo: vabbè, Paoli è mio amico, però la colpa è dei media che sbattono il mostro in prima pagina. Ma cuoque tu che c'hai un sito dove praticamente se uno è vagamente, lontanamente sospettato di non aver pagato i contributi condominiali sventolano i cappi, proprio tu. Cioè, ragazzi, il problema è che questo è un paese dove vige la legge del branco. Se sono miei amici, per definizione le leggi si interpretano e sono garantista. Se sono miei nemici, per definizione dura lex, sed lex e procediamo. Per cui fin tanto che non cambieremo noi dentro, questo paese si muoverà sempre in questi circoli viziosi di barbarie. E a maggior ragione hai citato Grillo, due sere fa Virus, la trasmissione di Nicola Porro, ha mandato in onda un filmato di un imprenditore dello spettacolo che ha dichiarato nel filmato di aver pagato in nero Grillo, non è né una riga da nessuna parte. Però detto tutto questo, abbiamo ospite con noi per commentare tutti i diversi blocchi che faremo fino alle 11 sulla materia fiscale, il professor Raffaello Lupi, che insegna diritto tributario alla facoltà di giurisprudenza all'Università di Roma Tor Vergata, che oltre a essere un versato tecnico però lo fa anche con una grande attenzione, per così dire, allo spirito culturale dei temi fiscali che attraversano la vita e la sofferenza del nostro paese. Buongiorno e grazie professor Lupi. Salve, buongiorno. Esiste questo problema culturale del chi evade da sinistra è meno colpevole di chi evade da destra? Ma non è una questione nei confronti delle persone. Io prima ero molto sollecitato mentre parlavate perché ho ascoltato attentamente. È un riflesso dell'utilizzazione della cosiddetta lotta all'evasione come un sostituto della lotta di classe, cioè non è per la faccia di Gino Paoli, di Augias, è per mantenere la spiegazione dell'evasione fiscale come un vizio dei ricchi che naturalmente sono di destra. quindi dietro, cioè non c'è un favore nei confronti del nostro di sinistra che hanno beccato, cioè se fosse per quello gli darebbero anche fuoco. Non è una questione personalistica di affinità, è una questione di tentare di salvaguardare questa strumentalizzazione della lotta all'evasione come sostituto, surrogato, siccome si è visto, cioè, che fine ha fatto la lotta di classe, quella che veniva, adesso si parla di cioè questa soluzione di ripiego che allinea in, prima si parlava del padrone sfruttatore, quando si parlava del padrone sfruttatore, adesso il padrone è diventato l'evasore, quindi non è che si difendono poi più di tanto, si cerca di glissare, cioè si mette in sordina la notizia, nessuno è uscito fuori dicendo ha fatto bene, no? Però se diciamo che sono mancati tanti che di solito si scagliano nel dire miserabile ha fatto male, ecco. Beh, la magistratura farà il suo corso, diciamo, si smussa la cosa e si aspetta che passi. Però professor Lupi, lei ha centrato una questione fondamentale, perché proprio la settimana scorsa, di nuovo in un'intervista televisiva, Vincenzo Visco ha dichiarato fuori dai denti: l'evasione fiscale è di destra, la lotta all'evasione è di sinistra. Capisco. Ma bene, poverino, lasciamo stare Vincenzo. Come poverino? Ma perché lui è uno che lui non doveva fare politica, doveva fare il professore, perché lo sa fare, cioè è uno che sa spiegare le cose. Raffaele, però non ho capito se è un apprezzamento o una sottile ironia. È, no? un apprezzamento, sì. Della persona. Però per fare politica bisogna comunicare, bisogna calcolare il bilancio politico, bisogna capire che il problema è la mancata determinazione, quello che turba l'opinione pubblica, in cui poi pescano i meccanismi della lotta all'evasione, è la spiegazione criminalistica, gli onesti e disonesti. Esatto. Nessuno riesce a capire che è una questione di differente determinabilità della ricchezza, che è una questione trasversale. E che non c'entra con chi può, e tendenzialmente poi quello che avviscono gli entra nella zucca, è che evadono di più i poveri per una questione economicamente elementare, che quando tu guadagni 100.000 euro, allora dichiararne 35 piuttosto che 80, perché 100, tutti e 100 non li dichiara nessuno, se puoi, se lavori al pubblico e poi va, ma ti cambia la vita. Quindi noi abbiamo un'evasione che è di sopravvivenza, insomma, è di sopravvivenza benestante, cioè nel concetto di evasione e di sopravvivenza ci sta pure 3 settimane al mare, la cena, i corsi di tennis per il figlio, cioè cose che fanno parte del pacchetto. Quindi questi, a parte che dichiarano pure tanto rispetto alla possibilità degli uffici tributari di individuarli e di determinare più accuratamente i loro redditi, cioè se li spendo in una trasmissione radiofonica, telefona uno e fa: io non ho i soldi per pagare l'IVA. Io rispondo: ma che ci ha fatto? E lui dice: e io ci ho vissuto. Vai un po' a spiegare che non deve vivere. Però intanto, prima sintesi parzialissima: abbiamo stabilito, per accordo con quello che dice qui con noi il nostro il professor Lupi, che la distinzione antropologico-criminale dell'evasore di destra e della lotta all'evasione di sinistra è un mero artificio di chi imposta politicamente come eredità di una vecchia lotta di classe che ha perduto e crede di riproporla in questo modo. Secondo, abbiamo anche affermato che non è vero che a evadere sono per definizione più i ricchi, perché se andiamo a vedere in percentuale eccetera eccetera, la cosa è trasversale, lo dicono i dati, non si tratta di avere delle impressioni, lo dicono i dati. E naturalmente il problema è che sotto, nei decidi più bassi ovviamente di reddito, diventa una questione altrettanto diffusa, se non di più, ma anche con diversi livelli di incidenza della necessità di sopravvivenza rispetto alle pretese fiscali. Ecco, mi pare una buona maniera di concordare su questa vicenda, no? sì, che sì. Dite? No, sono d'accordo. Perché stiamo appurando che chi vi dice e continua a dirvi che la lotta è di sinistra e gli evasori sono di destra, insomma, ha in mente semplicemente di chiedervi con un argomento facile, in nome del fatto che voi siete i migliori, perché se aderite a questo siete i migliori, siete i portatori dell'etica, siete i fondatori, i mattoni dell'uomo nuovo staliniano che compra. Invece no, bisogna avere una visione come quella che in sintesi vi abbiamo spiegato. Di fatto sì, hanno avuto un trattamento i signori di sinistra, protagonisti di questa vicenda, che gli altri non hanno avuto. Noi vorremmo che per tutti fosse questo trattamento e non roghi invece come per tutti. Va bene, passiamo tra poco, tra un minuto, all'altra questione. Siamo in arrivo di un torrente di grandi miliardi di evasori italiani che rientrano trionfalmente verso l'Italia dicendo: caro Renzi, ti risolviamo tutti i problemi di bilancio. E così, a tra poco. Della belva. Eccoci qua, tornati in questo sabato 28 di febbraio, San Romano, a chi festeggia questo oggi, e non magari la grande marcia contro Renzi della Lega Roma, vedremo oggi pomeriggio quanti sono, ma chi festeggia il vecchio calendario liturgico invece è San Romano. Allora, siamo qua con i nostri compari, Carlo Alberto, Mario, e continuiamo con il nostro ospite, il professor Raffaello Lupi, a esaminare un'altra fettina di problemi, o meglio, di novità positive, dicono tutti, fiscale avvenuto in questa settimana, perché... Sentiamo un secondo il ministro per Carlo Padoan. Questa è stata la settimana della caduta dei grandi fortini, dei paradisi fiscali. Non c'è più la tutela del segreto fiscale in Svizzera, in Liechtenstein. Si firmano protocolli di resa nei confronti delle vittoriose truppe italiane. E grandi flussi di miliardi risolveranno il nostro problema. Noi che abbiamo affermato la virtù etica dello Stato tassatore abbiamo fatto capitolare coloro che davano ricetto a questi parassiti, gli evasori. Un'ora fa abbiamo firmato insieme con la collega svizzera l'accordo sullo scambio automatico di informazioni che, insieme alla voluntary disclosure approvata dal Parlamento italiano qualche settimana fa, implica che ci sarà un forte incentivo da parte di tutti quelli che hanno portato illegalmente i capitali in Svizzera e anche all'estero in generale a regolarizzare la loro posizione pagando le stesse tasse che avrebbero dovuto pagare, le stesse, con sanzioni inferiori. Quanti soldi? Noi abbiamo postato un euro. Penso che sarà un euro. Penso che sarà un po' di più. Allora, questo è lo schema su cui riflettere. È davvero morto il paradiso fiscale in tutto il mondo? Io mi faccio una sommessa risatina. Questo significa che gli italiani che avevano i soldi lì li trasferiscono altrove se ci sono altri paradisi, oppure vengono qua per pagare tutte le tasse, perché come dice Padova non c'è più, e questo è bene, secondo me condoni alla Tremonti, ma bisogna pagare tutte le tasse e semplicemente un po' di sanzioni in meno del passato. Non c'è la piena certezza che non ci siano sanzioni penali. E poi, se non si viene da un paese blacklist, certo le sanzioni diminuiscono. Che dice il professor Lupi? Arriva questa tornata di miliardi nelle nostre casse? Ma anche se arrivasse la tornata di miliardi, sono i miliardi che rimpatriano e restano di proprietà dei relativi titolari. Quindi non mi pare che le nostre che noi in Italia manchiamo di liquidità. C'è una liquidità enorme che nessuno sa spiegare, che ovviamente se non ci sono iniziative affidabili, bancabili, poi dopo i soldi non li presta nessuno. Quindi non mi pare che abbiamo bisogno di una specie di quantitative easing indotto dal rientro dei capitali. Quanto entra invece nelle casse dello Stato? Ma a me sembra che il grosso sia di eredi di evasori fiscali degli anni 70, cioè gente che pagherà le tasse sui redditi dei capitali, ma non sui capitali, perché poi si pagherà, se il capitale sta lì dal 2005, ma spesso stanno lì dal 1978, il capitale ormai è salvo, si pagherà sugli interessi non dichiarati negli ultimi 4 anni, il periodo di prescrizione, quindi non è che arrivano grandi soldi, ecco, nelle casse dello Stato. No, no, è bene chiarirlo, perché c'è un equivoco di fondo sul fatto che dovrebbero mettere a posto da solo la finanza pubblica italiana. I redditi, i capitali rientrano in Italia, ma poi vanno sul conto del signor Rossi, non è che vanno sul conto di Piercarlo Padoan al tesoro. Lupini, allora quindi lei è d'accordo per la prima volta sulle previsioni di incasso del governo italiano. Io sono personalmente una delle poche volte in cui condivido un euro. Le previsioni. Un euro mi sembra una cifra ragionevole. Varia da 2 a 10, secondo anche alcuni. Probabilmente avrà un grande successo, siccome i redditi sono comunque i redditi finanziari degli ultimi 4 anni, sono, perché mi pare che ci sia un sistema a forfè del 5% l'anno, che secondo me non l'hanno mai preso il 5, ma comunque 5 per 4 20, facciamo un 20% dello stock degli ultimi, cioè un po' di conti della belva, insomma qualche spicciolo arriva. Sì, arriva. Dunque, io ho il seguente termometro, per così dire, avendo seguito la vicenda dell'evoluzione legislativa del provvedimento che è andata avanti per 2 anni e mezzo, come è noto, questa era l'ultima discorso, quindi nel frattempo arrivavano segnali alla comunità di chi aveva soldi fuori, dei professionisti che lavorano con gli italiani in Svizzera, di un certo tipo, dopodiché tornavano indietro. Nel tempo, le modalità con cui si è chiuso il provvedimento hanno il seguente effetto. Primo, i segnali controversi sull'esenzione delle sanzioni penali, per così dire, e su questo la magistratura ha ottenuto il fatto che non ci sia l'esenzione totale, cioè la certezza non puoi averla una volta che fai la dichiarazione, ha frenato e frenerà alcuni titolari, quelli grandi capitali, cioè quelli storici, quelli che stanno lì da parecchio tempo, come diceva il professor Lupi, che sono però quelli di una certa, di un certo peso. Allora, quella gente lì, di fronte al fatto che è vero, le banche svizzere ti dicono o ti metti in regola o fuori perché non ti vogliamo più, perché gli americani in questo hanno cambiato la storia con il loro accordo FATCA e minacciando di fatto con una pistola alla tempia le grandi banche svizzere, perché questo è quello che è avvenuto. E allora però molti italiani dicono, bene, dove li portiamo? E siccome i paradisi fiscali, chiedo al professor Lupi, non sono affatto scomparsi, perché ce ne sono ancora 45 almeno in giro per il mondo, Macao, Dubai, a seconda di qual è la tua, come diciamo allocatore di capitale internazionale, la tua struttura di professionisti che possono essere più o meno abili a supportare costi di intermediazione e di traslazione che diventano più pesanti, come ovvio, li porti fuori. Quindi prima cosa, non è vero che tutti rientrano. Seconda cosa, rientrano quelli che non immagino di avere altre procedure di regolarizzazione. Non è detto che non siano possibili, per esempio, perché basta avere in famiglia un parente di un'altra nazionalità che ha una legislazione concorrente diversa dalla nostra su questo, e per esempio si può fare. Mi limito a dire, non faccio la rubrica consigli all'evasore, dico che l'ottimismo su questo grande incasso a me sembra un po'. Però sentiamo Lupi. Lupi, che dici sulla voluntary disclosure? Allora, dico che tutto il battage pubblicitario dovrebbe chiarirsi sulla differenza fra la risposta alla richiesta, quindi parte da richiesta all'Agenzia delle Entrate a qualsiasi paese del mondo, cioè Oscar Giannino ha conti all'estero, però deve essere una richiesta per singoli contribuenti, non è che si può chiedere l'estratto conto come si fa in Italia adesso, no? Che tutti i saldi dei movimenti, che abbiamo fatto pure un'altra trasmissione, esatto, poi appaiono sui computer dell'Agenzia delle Entrate, cioè non è la telematica acquisizione degli estratti dei conti. Questo ci dovrebbe essere poi col FATCA, ma se ne parla dopo nel 2018, e esatto, su questo probabilmente non ci saranno mai tutti i paesi del mondo. Ci abbiamo messo 25 anni per farlo in Italia, figuriamoci per farlo con Singapore. Quindi Singapore dirà, se mi fai una domanda su Tizio, Caio, Sempronio, io ti rispondo, ma non ti metterà online, non andrà a dire, allora lei vuole aprire un conto a Singapore, lei è un italiano? Bravo. Perché se vi capita, se avete aperto un conto negli ultimi tempi in Italia, non so se vi è capitato di aver risposto alla domanda, lei è cittadino americano? No, no, molte banche lo stanno implementando. Altro che, se no altro non le fanno lavorare negli Stati altro Uniti. Non le fanno lavorare negli Stati Uniti ed è la prima volta dalla fine del 2013 al 2014 che infatti ci sono migliaia di cittadini americani con doppia cittadinanza che stanno restituendo il passaporto esattamente per il fatto che non era mai successo nella storia degli Stati Uniti. Di solito il passaporto americano, tranne che per chi va in Medio Oriente, è visto come uno scudo. Quindi, per dire, è proprio esattamente come dice il prof. Va bene. Della belva. Ed eccoci qui, tornate in diretta ai conti della belva. Carlo Alberto, Mario e Oscar, insieme al professor Raffaello Lupi, stiamo esaminando alcune delle ultime novità in materia fiscale. Abbiamo fatto una riflessioncina su questa presunta fine dei paradisi fiscali. No, non sono finiti. E no, degli incassi. Posso dirti una cosa, Oscar? Sai perché non finiscono i paradisi fiscali? Perché non finiscono gli inferni fiscali. Esattamente. Esistono i paradisi in quanto ci sono degli inferni. E noi siamo candidati alla lista degli inferni. Ecco, infatti io propagherei verso, come dire, un'evoluzione verso il purgatorio. Dateci un purgatorio, una cosa girone, più vivibile. Nel frattempo la delega fiscale approvata 11 mesi fa e in realtà attuata dal presente governo solo al 15%, un altro dei trionfali bilanci della produttività del governo Renzi. Scusate se lo dico con questo tono da Eiar Luce, ma capite che a volte quando sentiamo i roboanti difensori del governo che ci dicono che non capiamo niente, beh, la applicassero sta delega. Intanto stiamo aspettando da mesi nuovi decreti, intanto non abbiamo capito che aveva scritto la norma depenalizzante delle frodi fiscali, intanto ci aveva detto che c'era il Consiglio dei Ministri ieri, per la terza volta di seguito non c'è stato neanche ieri. E sapete no. Com'è la delega fiscale? Noi ci tenevamo a vederla approvata, visto che era esattamente, parlava di come farci diventare il purgatorio invece che l'inferno. Purgatorio fiscale, esatto. Ecco, e invece improvvisamente, dopo l'incidente della manina che non sappiamo chi sia, della frode depenalizzante delle frodi fiscali, hop, è tutto sparito dal 24 dicembre. Sono passati due mesi. Nel frattempo la delega si esaurisce, dovremo rinnovarla e quindi se ne parla l'anno prossimo. Questa è la sintesi di quelli che poi dicono a me è andato dall'avvoltoio. Vabbè, sentiamo rapidamente, prima di tornare a un altro blocco di questioni fiscali, cioè quello delle clausole di salvaguardia e dell'ok che è venuto alla legge di stabilità dall'Europa senza dire né a né ba, e noi sospettiamo che le clausole di salvaguardia abbiano un certo peso. Nel frattempo anche all'invito alla delazione o almeno alla collaborazione a destinazione anonima che è rifatto dall'Agenzia delle Entrate e dalla direttore Rossella Orlandi l'altro ieri, prima di sentire l'opinione su questo con il nostro ospite e dei nostri compari, rapidamente le vostre telefonate e cominciamo con Adolfo da Salerno. Prego Adolfo. Buongiorno, grazie per avermi chiamato. Dunque, sono un cittadino italiano, sì, e sto nell'inferno fiscale. Ah. Oh, questo inferno fificale è una cosa diversa. È bello bruciare diverso. Insieme, caro Adolfo, è bello. Ci si riscalda a vicenda. Dunque, si tratta di questo. Noi stiamo nell'inferno fiscale perché paghiamo troppe tasse. Cioè, chi paga le tasse le paga troppe. Sì. E allora, vediamo, quando io vado in un bar, sono costretto a chiedere lo scontrino fiscale, oppure quando mi arriva un muratore a casa, un idraulico, sono costretto a chiedere con una certa timidezza, anche paura, sono costretto a chiedere la ricevuta fiscale. E mi trovo con delle facce imbrungiate, eccetera, eccetera. Il punto è questo. Se tutti pagassimo le tasse, si parla di 90 miliardi annui, di evasione, piccola evasione fiscale, quella di massa, è chiaro, i grossi evasori devono essere condannati, devono essere perseguitati addirittura, ma noi cittadini che stiamo sempre a lamentarci degli altri evadono, i corrotti, i malavitosi, i politici, eccetera, fiscali, ecco. I politici ovviamente, quei politologi, ecco. Eccetera eccetera, noi dovremmo incominciare a fare un esame di coscienza, o meglio essere più egoisti, cioè fare pagare le tasse noi stessi. Allora Adolfo è, diciamo così, la prova provata del fatto che quello che ha detto Raffaello Lupi prima, guardate che a evadere c'è un'evasione di massa che riguarda tutti, fino scendendo a quella per sopravvivenza. Adolfo dice sì, ed è su quello che bisognerebbe che tutti agissero. Le facce imbronciate a cui si riferisce Adolfo me le immagino, sì, beh, effettivamente. Certo, a dire la verità, sì. Sentiamo Virgilio da Torino, prego Virgilio. Buongiorno. Buongiorno. Vorrei tornare sulla questione della diversa sensibilità, poco fa se ne è parlato. Paoli Augias Soria. Esattamente, Paoli. Allora, io sostengo che la vostra posizione è sbagliata. Non è vero che a sinistra si tende a usare due pesi e due misure, quindi giustificare Paoli e condannare il Rossi di destra. Non è affatto vero. Anzi, chi è di sinistra, chi si sente di sinistra, e le posso garantire che oltre ad essere di sinistra frequento per stare di sinistra, posso garantire che nessuno giustifica il comportamento di Paoli o di Auger se dovesse essere confermato e così via. Sì. Il senso, la differenza è proprio là, nel senso di vergogna. Se io personalmente dovessi essere scoperto a evadere, mi vergognerei, non tenterei la giustificazione. E questa è la vera differenza. Dall'altra parte si tende a giustificare. Però scusi Virgilio, però lei ha sicuramente ragione, però questa sua posizione, che io sottoscrivo e apprezzo, è la posizione della base della sinistra. I vertici, l'intelligenza, gli intellettuali di sinistra, in queste situazioni hanno questo riflesso pavloviano per cui diventano improvvisamente ultra garantisti. No? Per pro domo loro, diciamo, per le persone che considerano ad essi omogenee, e poi invece per quanto riguarda il resto del mondo diventano giustizialisti. Quindi io sono assolutamente certo che persone come lei, che rappresentano la base sana della ideologia tra virgolette della sinistra, qualunque cosa ciò significhi, provano vergogna perché è una violazione dei loro principi, e sono d'accordo, però voi siete la base. Voi siete la base, mentre i vertici, la gerarchia, l'intelligenza e gli intellettuali sono altro da voi. Concorda su questo? Allora vedremo se qualcuno prenderà le difese di Augias o di... Beh, sta già accadendo a livello mediatico. Avete intervistato una vostra trasmissione, quella della sera, quella del tardo pomeriggio, ha intervistato Sposetti qualche giorno fa, e Sposetti non mi pare che sia proprio esattamente la base del partito. No, certo. Ha detto delle cose su Paoli, no? Però dovete dire questo. Virgilio, scusi un secondo, non dobbiamo dire questo. Se lei paragona la potenza di fuoco scatonata in termini di editoriali, commenti, numero di colonne sui giornali, corpo dei titoli, su vicende, di che cosa vogliamo parlare, Pavarotti, l'ha citato lei, Rossi e così via, rispetto a quella di Paoli, troverà, lo dico in maniera fredda, critica, cioè è una questione oggettiva, troverà una asimmetria assoluta, che esprime che cosa? Quello che prima diceva Mario, cioè una autorestrizione, un self-restraint, un'automisurazione delle reazioni di sdegno da parte della sinistra, perché si tratta di Gino Paoli. Ora, in questo, noi non stiamo dicendo accendete i roghi, però vogliamo riflettere sul fatto che se i personaggi noti appartengono notoriamente a una parte politica, scatta l'autorestrizione, commendevole dal nostro punto di vista, mentre per nomi notoriamente considerati Alfieri, portabandiera, iscritti, simpatizzanti del noto criminale condannato per frode fiscale, altro che oggettivamente Berlusconi, allora scatta invece la muta dei cani che mordono. Sono due atteggiamenti culturali nelle classi si vedono. Se posso dire qui, il vero tema della sinistra è che le tasse, signori, non sono un fatto etico-morale, sono un fatto legale, sono un contratto fatto tra cittadini e lo Stato. Lo sai che non è così, ma questa è la mia obiezione. È un'obiezione liberale di dire: guardate, cari signori di sinistra o di destra, le tasse sono un contratto tra cittadini e Stato, non sono un fatto di etica o di morale. Invece per la sinistra, per tutti gli hegeliani, siano di destra o di sinistra, perché noi siamo in un paese in cui la destra viene poi dallo spiritualismo hegeliano, e questo spiega perché non abbiamo una destra anglosassone liberale. Per loro lo Stato è il soffio dello spirito nella storia, e quindi le tasse sono la manifestazione suprema della divinità, cioè dello Stato. Raffaello Lupi, quanto pesa questa tradizione hegeliana idealista nella concezione etica del fisco? Ma mi pare una tradizione hegeliana idealista alla matriciana, perché si dovrebbe utilizzare quando si valuta il funzionamento delle strutture pubbliche, perché poi la sanità, la previdenza, l'istruzione, la rimozione dei rifiuti, la determinazione della ricchezza ai fini tributari non funziona. Per quello che noi non capiamo è la tassazione attraverso le aziende, e questo sarebbe difficile, ma che noi non abbiamo capito le aziende come luoghi in cui tante persone lavorano insieme, allora c'è un ufficio contabile, allora è l'ufficio contabile delle aziende che porta i soldi dell'IVA e quelli delle ritenute dei dipendenti, che non sono buoni, non sono onesti, sono in un ingranaggio in cui vengono tassati dall'azienda, dove l'azienda non c'è perché lavoro direttamente con la signora che mi compra le pastarelle in pasticceria, io dichiaro quello che mi sento di dichiarare. Finché non si capisce questa differenza, staremo sempre a creare lacerazioni sociali, il mito dei grandi evasori, che poi i grandi evasori, cioè i ricchi, se lo possono permettere di pagare le tasse. Quindi l'industriale che si fa pagare come consiglio di amministrazione 5 milioni di euro l'anno, 2,5 li paga, non è che gli cambia la vita. Certo. Quindi se noi la spieghiamo con la criminalizzazione non andiamo da nessuna parte, creiamo una tensione sociale che sapete poi su chi si sfoga? Sulle aziende che sono gli esattori, andiamo a fare il tutoraggio sulle aziende, reinterpretiamo il dichiarato, l'illusione che adesso non la fa più nessuno e allora se la inventano nei verbali per fare risultato, cioè facciamo un favore non agli evasori, perché io non uso l'espressione, come noi trattiamo gli evasori come se fossero i visitor, ve lo ricordate, i rettiliani? I rettiliani, cioè, ah, è un evasore, c'ha la coda, c'è, cioè, far fare è quel così, marchio di i topi. Ma dove sta il marchio di sa, cioè noi abbiamo questa attenzione. L'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci qui tornati in diretta alle 11:07:21 in questo primo sabato della grande ripresa italiana, 1+0,1%, che luminosamente fa riapparire l'Italia nei cieli della crescita e che moltiplicherà le entrate fiscali, +0,1 figurati un po', eccetera, eccetera. Però detto tutto questo, ma siamo salvaguardi, si salvaguardi chi può, caro, si salvaguardi chi può, perché qui abbiamo 50 miliardi di clausole degli anni prossimi. Perché io vorrei solo ricordarvi, cari Topolini in ascolto, come diceva un vecchio grandissimo attore italiano, che Topolino ascolta Paolo Villaggio, quindi stiamo parlando veramente di... Ah, non era Cicciolina? Mi sono confuso, non so cosa dicesse, ma non credo parlassi di Topolini, questo però detto tutto questo, voi non dovete dimenticare, e immagino che molti di voi non l'abbiano dimenticato, che nella realtà voi avete nella legge di stabilità che questo governo è chiamato a scrivere tra pochi mesi una bella sberletta di nuove tasse che vi aspettano, perché è questo governo che ha scritto nella legge di stabilità, che è stata approvata senza osservazioni quasi a settimana dall'Unione Europea, che nel 2016 entrano in vigore, devono essere adottate misure per 3,2 miliardi per una roba che si chiama clausola di salvaguardia ex articolo 1,430 e sono 3,2 miliardi, poi ci sono altri 12,8 miliardi della clausola di salvaguardia ex articolo 1,718 e la somma della clausola di salvaguardia nel 2016 sono 16,8 miliardi di entrate aggiuntive, nel 2017 26,2 miliardi di entrate aggiuntive, nel 2018 28,9 miliardi di entrate aggiuntive, per un cumulato 2015-2018 di 72,7 miliardi di entrate aggiuntive. Ecco, questo è quello che grava sul nostro futuro, Mario. Esatto, che secondo me si sta sottovalutando questa enorme spada di Damocle, perché noi nel 2015, per usare un gergo del poker, stiamo andando all in. Cosa vuol dire? Che se l'economia italiana avrà un mini boom nel 2015, io sono lo scià di Persia, molto lieto, se l'economia italiana avrà un mini boom nel 2015 noi riusciremo forse a disinnescare queste clausole di salvaguardia, diversamente sarà un massacro, sia che si agisca sulla spesa, perché questo è oggettivo, sia che si adotti un aumento di imposta. Se si deve intervenire sulla spesa per 72 miliardi in un anno. Vabbè, si parte con 12 nel 2016, però guardate, secondo me è passato sotto silenzio, bravo, è stato sottovalutato la valutazione della Corte dei Conti in settimana. La Corte dei Conti ha detto i margini di intervento sulla spesa sono notevolmente assottigliati e ridotti. Io personalmente sposo questa tesi, Ok? Questo vuol dire, cosa ha detto la Corte dei Conti? Un concetto molto importante. A questo punto, e da questo punto, serve ridefinire il perimetro, esatto, pubblico. Esattamente. Questa è una cosa che naturalmente è una cosa che implica interventi ancora più energici e decisivi. Esatto. Conseguenze da stimare ex ante dell'effetto di minor domanda e consumi se si interviene sui salari. È quello che chiamo sanità e trasporti. Esatto. Questi sono le due grandi voci. Welfare review, non solo lo spending review. Esatto. Dello Stato. Però è spesa viva, perché se parliamo di co-payment, di compartecipazione, aumenta nella contabilità nazionale la spesa per consumi, ad esempio sanitari, da ticket, eccetera. Ma sono soldi, sono soldi che io non ho più per altri consumi discrezionali. Questa cosa sta sfuggendo praticamente a tutti gli osservatori dell'economia italiana. E al fatto che, aggiungiamolo, Renzi ha fatto un 2015 con la legge di stabilità allegra fischiettando, forse pensando a metà dell'anno scorso di votare nel 2015, ma dal 2016, cioè da settembre e dicembre di quest'anno, quando si tratta di mettere mano, sono cavoli amari. Quindi o c'è veramente, compare il grande arcobaleno, Over the Rainbow, e cantiamo tutti la canzone 0,1, ecco. Le risorse fiscali non ci sono, inutile che stiamo qua a darci o altrimenti 5. Stiamo scommettendo che con sia la Grecia, con i cattivi tedeschi che sono diventati buoni e così via, si dimenticano tutti di questi 72 miliardi. Ti sembra possibile, Carlo Alberto, che si dimentichino di questi 72 miliardi? È un occultamento di cadavere, è un occultamento dire. Di cadavere. Il cadavere è quello italiano fiscale, perché sapete che anche, basta un terzo di questi aumenti a ucciderci ulteriormente. Dove riparte la domanda in un paese con questa enorme macigno che grava su tutti noi? Comunque, se pensate che lo stiamo inventando perché siamo gufi o avvoltoi, queste sono le cifre ufficiali della legge di stabilità. Un po' gufo sei, però un po' di liberalizzazioni, dai, le stanno facendo. Insomma, perché sei sempre così negativo? Fammi parlare, che è uno straccio di liberalizzazione. Ecco che arriviamo al punto di fondo. Questa settimana è stato rovente sui social, perché l'hashtag rottama la tutela, con cui le rappresentanze notai, tantissimi notai italiani, hanno messo nel mirino l'intervento che nel disegno di legge concorrenza è riservato alle materie di esclusiva, non più di esclusiva, dei notai, è stato furibondo. Allora, innanzitutto, quali sono le novità per quello che riguardano i notai nel disegno di legge di concorrenza? Poi passiamo a presentarvi i nostri ospiti. E per quello che riguarda i notai, ci sono innanzitutto alcune novità, diciamo così, di fondamento, cioè salta il riferimento al reddito minimo di 50.000 euro triennali per determinare il numero dei notai in ciascun bacino territoriale, e il bacino territoriale viene anche esteso come definizione a livello regionale. Il punto, a dirvi la verità, su cui però i notai sono furibondi e attaccano durissimamente il governo, è il venir meno di uno dei regimi di esclusiva, perché l'autentica notarile, secondo disegno di legge concorrenza, non diventa più necessario per le compravendite di immobili a fini diversi da quelli abitativi, quindi box, cantine, eccetera, eccetera, sotto i 100.000 euro, e in questo caso basta l'intervento di un avvocato, che deve avere una polizza professionale con un massimale pari almeno al valore del bene. E anche per la costruzione di una società a responsabilità limitata semplificata, a questo punto non c'è più il regime dell'esclusiva notarile. Vedi che ti lamenti sempre, che è una bella cosa invece, no? Sentiamo. Allora, i notai dicono: cari italiani, riflettete, perché il venir meno della nostra esclusiva in realtà accomuna ha una nostra competenza prima esclusiva, quella di un avvocato, un professionista che è una parte, mentre noi lavoriamo per lo Stato, cioè noi siamo tenuti a esercitare una serie di controlli di vigilanza che sono uno dei punti di forza del nostro paese, i registri immobiliari che ci hanno impedito scandali di massa come quelli dei mutui subprime, e quindi prestiamo un servizio a tutela della legalità e antiriciclaggio che inevitabilmente nelle mani di un professionista concorrente che però non ha gli stessi vincoli di legalità dello Stato è una frontiera di legalità che si abbatte. Questo è il nocciolo della questione. È ovvio che dentro c'è anche la difesa della parte di mercato di queste compravendite, ma noi abbiamo chiesto a Eliana Morandi, che ringraziamo di essere con noi collegata, di dirci, che è notaio ovviamente, di spiegarci meglio, perché la durezza dell'attacco lanciato in questi giorni è stata incredibile. Man mano avete accusato Renzi di essere servo dei poteri forti, delle banche. banche, della mafia. Insomma, io ho una filza qua di messaggi, ma li sintetizzo così. Allora, Eliana Morandi, intanto buongiorno e grazie di essere con noi. Buongiorno, grazie a voi di averci, consentito di venire. Ho sintetizzato male la posizione? Chiedo apposta. Ha sintetizzato bene. Però bisogna, spieghiamola meglio. Voi non ve l'aspettavate innanzitutto, no? Ma guardi, questi in realtà in tutta Europa, questi attacchi al presidio di legalità costituito dal notariato vanno avanti già da almeno 10 anni, quindi aspettarselo in generale sì, e soprattutto considerando che un attacco che ha la stessa finalità, ma inutile parlarne qua, è stato fatto in agosto nella stessa Inghilterra. Certo, ma io sono andato anche a controllare, per esempio in Francia, la Francia che non è proprio un paese poco statalista, ecco, in Francia né per i mutui ipotecari né per nessun atto societario c'è bisogno del notaio. In Francia ti puoi comprare una società con dentro solo immobili senza passare per il notaio, lo dico solo perché lei ha citato la comparazione europea. No, certo, io peraltro però sono, diciamo, non, so della Francia solo che non hanno competenza societaria, non mi risulta invece, anzi mi risulta assolutamente imprescindibile la competenza nel campo immobiliare, però devo dirle veramente che io mi occupo molto di più del mondo anglo-americano perché ho abitato negli Stati Uniti per 3 anni e da allora mi sono sempre preoccupata di vedere le differenze in bene e in male che ci sono tra questi due sistemi, per cui non sono in grado di parlare della Francia, preferirei appunto molto vedere eventualmente la comparazione con gli Stati Uniti. Con il paese di common law, quindi, che sono diversi. Anche perché in realtà sono loro quelli con cui ci compariamo sempre. Sui, no? Grandi mercati, certo. E questo è il punto, noi non siamo affatto contrari alle liberalizzazioni se fatte con norme adeguate, perché la stessa Banca Mondiale nel rapporto Doing Business ha detto che i paesi economicamente che stanno meglio e sono più avanzati non sono quelli senza regole, sono quelli che hanno le regole giuste, e lo dimostra il fatto che non siamo contrari proprio perché il nostro numero è aumentato del 30% in 10 anni, mentre in Olanda per esempio in 15, meno del 10%, e abbiamo aperto le competenze in termini territoriali, anche se devo dirle che questo, la territorialità è a presidio dei cittadini. In Inghilterra la chiamano access to justice, cioè accesso alla giustizia, e nel nostro caso giustizia preventiva. Il punto è di questa cosa che in realtà sta proprio portando, o porterebbe qualora venisse attuata, il cambiamento radicale dal sistema di conservazione dei registri immobiliari e societari, dal modello di diritto civile al modello anglo-americano. E il modello anglo-americano, sia dell'immobiliare sia del societario, ha dimostrato tutti i suoi rischi nei confronti dei cittadini negli ultimi anni in modo inequivocabile, come lei evocava, non solo con lo scandalo dei mutui subprime che hanno portato a, come sappiamo, a disastri pazzeschi negli Stati Uniti, ma poi al dilagare della crisi finanziarie in tutto il mondo e nel sistema economico. Sì, sono stati uno dei motori della grande crisi, diceva, ma non solo i subprime, ma anche quella peggiore, forse, di cui qui in Italia si è parlato meno, quella cosiddetta delle espropriazioni illecite, il cosiddetto foreclosure gate, cioè la gestione autonoma di tutti i mutui, quindi mutui, ipoteche e naturalmente vicino anche le vendite, perché lì non c'è, come dice lei, non c'è notariato di diritto civile, ha portato, per fare la sintesi, a 4 milioni di case espropriate illecitamente, 4 milioni di persone che si sono trovate senza case, e a un danno per tutto il sistema dei mutuatari così elevato che dal 2010 a oggi tutte le maggiori banche hanno dovuto concludere accordi transattivi di risarcimento ad oggi per oltre 160 miliardi di dollari. Però Eliana, lei è notaio a Trento, eccetera. Qui stiamo parlando di una norma che riguarda l'immobiliare, il venir meno dell'esclusiva notariale sul immobiliare non residenziale sotto i 100.000 euro. Lei dice sì, ma si comincia così e si arriva là. Non stiamo parlando delle case, non stiamo parlando della generalità, stiamo parlando di un valore contenuto, non contenutissimo, perché con 100.000 euro non ti compri il box a Roma, ma te lo compri come nelle altre città italiane, ma nel non residenziale. Però capisco se voi dite si comincia così e si intacca il principio. Adesso abbiamo strade e poi abbiamo una controparte rispetto al nostro notaio di Trento Lina Morando, cioè l'avvocato Alberto Saravalle, e sentiamo un po' dal punto di vista di professioniste concorrenti come viene valutata invece questa norma. Strade. Della belva. Eccoci qua, stiamo parlando con i compari Carlo Alberto, Mario e Oscar, e col notaio, il nostro ospite Eliana Morandi, notaio a Trento. Stiamo parlando di questa norma controversa, disegno di legge concorrenza del governo, che intacca il regime di esclusiva del notariato per le compravendite e gli atti per l'immobiliare non abitativo sotto i 100.000 euro, e quindi si può andare da un avvocato invece che da un notaio. E avete sentito, insomma, gli argomenti sono forti. Sono notaio è una tutela di legalità, il notariato latino, a differenza di quello dei paesi di common law, è un presidio nell'interesse dei clienti, l'avvocato è una parte, non ha lo stesso ruolo nella cura e nella redazione dei registri immobiliari, che sono un punto di forza nel nostro paese contro gli illeciti, e a tutela ovviamente di stessi proprietari che attraverso il notaio sono in grado di capire e avere la certezza chi è davvero il proprietario da cui stanno comprando, qual è il regime di ipoteca eventualmente che grava sull'immobile, e così via. Quindi un argomento che riguarda la legalità. Allora, abbiamo con noi anche Alberto Saravalle. Alberto Saravalle è un avvocato, insegna diritto europeo a Padova ed è cofondatore e ispiratore del think tank Liberal Democratico Italia Aperta. Buongiorno Saravalle. Buongiorno, grazie dell'ospitalità. Che rispondere alla durissima campagna dei notai e gli argomenti che ci ha appena rappresentato Eliana Morandi, che resta con noi collegata? Ma allora, io credo che nulla di nuovo, in fin di conti quasi tutte le categorie toccate dalle liberalizzazioni dicono sostanzialmente: noi siamo speciali, fate le liberalizzazioni degli altri, ma noi abbiamo una funzione particolare. Nei giorni scorsi ho sentito per esempio i farmacisti che dicevano che l'apertura delle catene dei farmacisti, che dovrebbe essere possibile se il disegno di legge passerà così, apre le porte al riciclaggio di denaro attraverso le farmacie. Quindi credo che sia un'esagerazione. Alla fine questo è un disegno di legge che porta alcune piccole liberalizzazioni che vanno quindi inserite in questo contesto. Si tratta di operazioni de minimis, sotto i 100.000 euro, si parla di società a responsabilità limitata semplificata, che sono fatte quindi per piccoli investimenti, per agevolare l'imprenditoria giovanile, dove già era previsto peraltro una riduzione degli onorari notarili. Quindi in fin dei conti cerchiamo di rivitalizzare il nostro paese anche riducendo i costi. Questa è la ratio, cioè alla fine non credo che si possa continuare a erigere queste barricate dove viene toccata la propria categoria. Ben vengano queste liberalizzazioni. C'è un SMS di Damiano da Roma che dice: ma è una facoltà del cittadino o un obbligo? Per maggiore garanzia posso comunque andare dal notaio? I notai abbasseranno i loro onorari? Alberto, è una questione di costo o di legalità? Facci capire. Secondo me è sicuramente una questione di... la ratio è una questione di costo. Si vuole aprire il mercato. Non credo che sia una questione di legalità su queste piccole operazioni. Poi che ne venga fatta una difesa dal punto di vista della legalità, però se uno vuole vada dal notaio, non è che il notaio non lo può fare. Sono tutte facoltà. il disegno di legge apre delle possibilità alternative, non obbliga nessuno. Sì, però io ho una considerazione da fare, è una questione di costo. Vabbè, abbattiamo i costi di transazioni di piccoli immobili fino a 100.000 euro, forse, però quant'è il grosso del costo? Sono le imposte, no? Sì, cioè l'imposta ipotecaria, catastale, quindi alla fine è lo Stato che ci costa e non solo. Se vogliamo attribuire questa facoltà, la spostiamo dai notai in capo ai legali, comunque i legali devono dotarsi di assicurazione. L'assicurazione non è gratuita, l'assicurazione è un flusso di reddito che dal consumatore acquirente di questo immobile via avvocato arriva all'assicurazione. Quindi io mi chiedo, abbiamo realmente questi margini di abbattimento del costo, visto quanto costa lo Stato in termini di imposte e gli oneri di struttura e di garanzia? Io ho qualche dubbio sulla struttura complessiva dei costi dopo la riforma. Che dice Liana Morandi? Guardi, il problema del costo mi sembra sia stato da lei individuato nei suoi termini più esatti, nel senso che anche nei sistemi di diritto angloamericano, dove non esiste notaio, è assolutamente regola normale che ciascuna parte abbia il proprio avvocato, quindi come minimo il costo raddoppia e in ogni caso le tariffe degli avvocati angloamericani non sono certo basse. Ma non è questo il punto, vede, per me il problema è che un registro immobiliare e societario, certo, è affidabile nella misura in cui tutti i dati che vengono inseriti sono affidabili, perché non è vero che si tratta di cose di poco valore, anzitutto perché gli immobili hanno valore catastale fino a 100.000 euro, il che oggi come oggi è noto a tutti, vuol dire che un valore catastale è se va bene un terzo di quello di mercato, ma a prescindere dal valore, perché domani questo bene potrebbe valere molto di più, il punto è che il registro è come una catena, ha la forza del suo anello più debole. Allora, se certi controlli non sono stati fatti su una serie X, su un numero X di dati, quel sistema nel suo complesso non è più affidabile, perché l'atto successivo, che sarà forse di valore superiore oppure la parte preferirà andare dal notaio, non potrà avere la stessa attendibilità, la stessa base semplice e affidabile di ricerca che ha adesso il registro, perché in termini di ricerca, di affidabilità dei dati, di quella che chiamano nel mercato conclusiveness, quindi di semplicità di controllo dei diritti, è un valore assoluto che in questo momento, certo, c'è e che verrebbe messo in crisi. Ma tant'è che non lo diciamo noi, lo dice la Banca Mondiale in un rapporto che si chiama The Puppet Master, cioè i burattinai del 2011, dove dice i registri societari devono essere sicuri, attendibili, controllati. No, è così, lo dice davvero. E poi lo dice, e questo è una cosa formidabile dal mio punto di vista, lo dice tu in business. Lo dice due in business. Infatti, famigerato questo benedetto rapporto. Guardi che noi non sta parlando al pubblico mainstream, per cui concorrenza, guardate, questo benedetto rapporto. Questo benedetto rapporto, ecco. Ha ragione. Bene o male ha fatto muovere tutti. Io aggiungo questo, io sono notoriamente a favore della caduta dei regimi di esclusiva professionale. Questo lo scrivo da tantissimi anni. Però questo non mi impedisce di vedere che ci sono questioni particolari. Allora, la questione particolare è sul fortissimo impatto che ha sul mercato immobiliare italiano, sull'andamento dei suoi valori e prezzi, una fortissima questione, e cioè l'enorme questione di immobilismo immobiliare che sta negli asset patrimoniali e nei libri, quindi, delle banche italiane, che sono in una fase molto grave per quello che riguarda la necessità di smobilizzare a fronte di una enorme quantità di credito deteriorato. Allora, di fronte a questa questione qua, che quindi ha a che fare con l'edilizia abitativa e quella a fini di uffici e a fini commerciali, ma con superfici immense che sono a valori di libro del tutto fuori da valori accettabili e reggono però piramidi patrimoniali sempre più malcerte nelle banche. Questa cosa a me preoccupa molto. Se ci dovessimo trovare di fronte al venir meno di un solido presidio terzo nella valutazione dei prezzi e delle compravendite immobiliari, di fronte al rischio che questo fosse influenzato da impellenti e diverse esigenze di smobilizzo bancario. Questo io tento di dire in una maniera asettica, caro Alberto. Che dici tu? Fare la bad bank per via transattiva, se posso dire. Perché quello significherebbe esporre davvero migliaia e migliaia di potenziali acquirenti a dei rischi infiniti. Ecco, io su questo la mia preoccupazione ce l'ho, perché questa è una cosa che grava sull'intero mercato immobiliare italiano. È un grande non detto, perché l'informazione ha paura di toccare questo tema, perché ovviamente le banche hanno le loro modalità, ma le banche organizzate con uffici interni che a quel punto hanno l'obiettivo dello smobilizzo invece quello che è quello della tutela piena dell'informativa dell'acquirente, della legalità, questo è un rischio che esiste, grosso o no? Esiste. E se posso dire anche un'altra cosa, e sai che qui devo dire che tante volte sono stato al notaio, parlo di atti societari, e ho trovato per la prima volta nella vita mia la sensazione della legalità. Io devo dire, guarda, non mi piacciono le esclusive, però le poche cose che ho imparato della legalità di questo paese le ho imparate in seduta notarile con i notai. Quindi qualcuno di loro veramente per me è stato maestro, io lo dico con estrema serenità, no? Quindi magari mi piacerebbe che non fosse esclusivo, ma io riconosco la grandissima professionalità che ho trovato in tanti notai, e devo dire che fatti quattro conti, comprese le assicurazioni, compresi i conflitti di interesse, caro Mario, non sono proprio sicuro che questo sia la panacea della liberalizzazione in Italia. Ci ho detto, non so, sì, magari sì. Alberto la pensa diversamente. Sì, Alberto. Dicendo, torniamo tra poco però, perché ci abbiamo la pausa obbligata. Della belva. Eccoci tornati qui in diretta 11:37:40 secondi con la compagnia dei compari. Carlo Alberto, Mario e Oscar, stiamo parlando di questa difesa strenua da parte dei notai con l'accusa al governo che nel disegno di legge concorrenza gli intacca e modifica il regime delle prerogative nell'ambito delle prerogative dei notai sugli atti immobiliari. Si comincia dall'immobiliare non residenziale, però abbiamo visto che qualche rischio in effetti anche a modestissima opinione nostra c'è. È vero che il governo equilibra però, per così dire, Mario, no? Sì, cioè, sì, no, c'è stato dei doubt test, nel senso ai notai è stato ampliato il bacino di potenziale utenza, alle farmacie è stata preservata la vendita esclusiva dei farmaci di fascia C, però è stato consentito l'ingresso di soci di capitale, il che vuol dire che il farmacista classico, quello old fashion, è destinato, non dico a distinguersi, ma sicuramente a ridimensionarli. Per cui c'è un doubt test nella linea del governo, ma il beneficio ultimo, cioè il costo per il consumatore, perché quella è la ratio di una legge sulla concorrenza, lo scopriremo solo vivendo. Solo vivendo. Io ho sta preoccupazione sull'immobiliare rispetto all'interesse delle banche, questo ce l'ho. Sentiamo come la pensa Gianni da Lecce. Gianni, prego. Pronto? Eccoci, dica. Eccoci. Allora, io sinceramente sono assolutamente contrario a questa forma di liberalizzazione che... danno una, perché si tratta di una liberalizzazione assolutamente fasulla. Scambiamo quello che può essere qualche decina di euro, qualche o anche un centinaio, perché poi alla fine di quello andrebbe a parlare, perché gli avvocati non lavoreranno gratis, no? Dovranno necessariamente pagare anche loro, pagare l'assicurazione, avere una struttura, esatto. Per avere poi in cambio una assenza di garanzia sulla qualità dell'atto, i motivi di nullità che sono estremamente variegati nella nostra legislazione, perché è fatta da tutta una serie di piccole norme, che di commi addirittura infilati in finanziarie, che portano alla nullità dell'atto. Chi li garantisce? Chi ne risponde? Perché la norma, almeno il disegno, mi sembra di capire che parla di autenticazione delle firme. Il che vuol dire che l'autenticante non assumerebbe neanche responsabilità su quello che viene, sul contenuto dell'atto. Allora, chiara obiezione da parte sua, Alberto. Una seconda chiudo. Mi dica. La raccolta sistematica degli atti, che attualmente viene garantita attraverso il notariato, dall'archivio notarile, come andrebbe, dove andrebbe ad essere posto? E chi ci andrebbe a controllare questi atti? Attualmente l'archivio notarile svolge anche funzioni di controllo sulla qualità degli atti notarili. Domani chi farebbe questo controllo? Nessuno. Andiamo a ramengo, alla deriva, da tutte le parti, e stiamo parlando di 100.000 euro che la gente ci impiega 4 anni a mettere in tasca dallo stipendio. Allora, chiarissimo Gianni, però insomma, si può variare sul tema, ma il tema è quello, cioè i notai dicono: noi abbiamo una funzione di legalità che non ha la parte terza. Alberto Serravalle, che considerazioni aggiuntive in risposta? Io allora vorrei ritornare a qualcosa che mi pare ha detto Carlo Alberto poco fa, cioè è questa la panacea? No, non è la panacea, ma nessun provvedimento da solo è la panacea. Questa è la prima volta che avremo in Italia una legge sulle liberalizzazioni, che era prevista dal 2009, che ogni anno il governo avrebbe dovuto fare e che non ha mai fatto. Se l'avessimo avuta tutti questi 6 anni, complessivamente oggi probabilmente il tasso di crescita del PIL sarebbe superiore, o sarebbe stato superiore, come ci dice la Banca Mondiale, come ci dice il Fondo Monetario. Questo che riguarda i notai, io ho molta simpatia, molti amici tra i notai, è tra l'altro un pezzettino di una norma che dice molte altre cose, che dice che non ci può essere la garanzia di avere almeno 50.000 euro di onorari professionali per ciascun notaio, perché nel selezionare l'ambito, la possibilità di andare a fare il notaio non solo nel distretto ma nella regione. Quindi sono norme che vanno inserite in questo contesto più ampio per capirle e che toccano molti altri, non moltissimi per la verità, a me sarebbe piaciuto di più, settori. No, no, certo, ma questo comunque, per essere chiari, non è di qua che verrà il più del PIL aggiuntivo stimato dal disegno di legge concorrenza, cioè ci sono settori toccati, per esempio l'abrogazione, sia pure entro 3 anni, entro 2018, della parte tutelata del mercato energetico ed elettrico, e quello hanno un impatto forte e immediato, vero, sia sulla tutela dei consumatori che sul PIL. Però sta di fatto che in realtà dell'intero disegno di legge concorrenza, la parte che ha suscitato fino a questo momento, stante la vittoria preventiva dei farmacisti che hanno vinto prima, sì, ma noi non hanno vinto i farmacisti, hanno vinto vecchietti, poverini. No, vabbè, la vittoria dei farmacisti, la vittoria dei portuali che sono stati tutelati naturalmente dal ministro dell'NCD, ci siamo dimenticati i tassisti. Il partito più contrario alla concorrenza, NCD, la destra al governo, pazzesco, però è così. Però stante questo, la categoria e il punto che più sta suscitando il Vietnam di reazioni è esattamente questa della reazione dei notai. Eliana, posso chiedere a Eliana Morandi, voi vi aspettate un Parlamento che ovviamente vi dia ragione? Dunque, volevo fare una brevissima inciso. Lo scenario apocalittico molto pericoloso che lei ha tratteggiato è esattamente quello di cui parlavo prima, ma non l'avevo focalizzato così bene. Perché il... Guardi Eliana, però non no, è... Aspetti, posso dire, banca, lei, se dice apocalittico, perché pensi che la sovrastima degli attivi immobiliari nelle banche, magari fosse vero e avesse ragione lei, temo di avere ragione io, chiusa parentesi. Allora, il protagonista del problema dei 166 miliardi di danni risarciti, e non sono evidentemente tutti, è MERS, che è la società privata posseduta da tutte le banche americane, che ha gestito in autonomia i mutui e le espropriazioni, cioè le ipoteche, quindi poi espropriazioni, con le finalità e le caratteristiche che ha indicato lei. Questo è accaduto. Hanno gestito la cosa, venduto i beni senza nessun controllo criterio sul valore, su quello che ne veniva poi di conseguenza. Quindi questo è già successo. MERS è quello che ha fatto il vero soggetto, e negli Stati Uniti infatti è stato accusato pesantemente, ed è quello che hanno cercato di fare in Inghilterra. Il problema non è il notariato, il problema, se il notariato fosse inutile, ma io ho fatto l'avvocato anch'io, ho fatto prima di quello anche. Quindi lei non resta per strada, insomma, ecco, non è una questione, lei dice, di tenerci al titolo. Perché c'è l'esclusiva? Chiediamoci questo, perché c'è l'esclusiva? Il notaio, in tutti questi comunicati anche di Federconsumer, consumatori, che voglio dire non è che ci amino proprio tanto, è il pubblico ufficiale. Cosa vuol dire pubblico ufficiale? Vuol dire che noi abbiamo, detto in semplice, il coltello del controllo statale puntato alla gola da quando entriamo. Ma però, Eliana, però diciamoci la verità, la legge con la scrittura notariale ha oramai più di un secolo e nasce per uno Stato inefficace nel fare fede pubblica. Nel frattempo, in un secolo, c'è anche la tecnologia per fare fede pubblica. Però se, no, se, è lei che mi ha trascinato adesso sul terreno della fondatezza dell'esclusiva. No, lo Stato vi ha delegato una funzione che lui è incapace, da allora era incapace in termini elementari, adesso anche tecnologicamente, di rappresentare, cioè la fede pubblica. Posso dirle una cosa? Sì. In realtà la posizione italiana, dal mio punto di vista, è uno straordinario, veramente antesignano, outsourcing di funzioni pubbliche. Sì, sì, perché? Sì, sì. Beh, aspetti, perché quella funzione pubblica di garanzia dei dati, e c'è, ancora oggi c'è la garanzia dei dati da parte dello Stato, a differenza totale del sistema anglo-americano, c'è, ma a costo e a danno e a spese e a rischio del notaio, perché lo Stato funziona e tutti traggono benefici da questa sicurezza totale garantita del registro immobiliare e del registro societario, ma se per caso c'è un errore non lo paga lo Stato, no, c'è andata di mezzo le risorse pubbliche. Sì, ma infatti questo è stato il modo per esternalizzare una funzione che non era in grado di svolgere, per così dire. Senta, esternalizzare vuol dire in termini economici. Si figuri se non sono favorevole, però minore. Questo non significa che siccome è stata fatta più di un secolo fa varrà per sé. Ecco, io questo che vorrei dire, perché nella difesa del modello notariato latino trovo un'intoccabilità come i vecchi ordini cavallereschi, non so come dire. Nel frattempo non si andava più a cavallo, ecco, capita nella storia ogni tanto che bisogna, no, ripeto, adesso non sto dicendo aboliamoli, sto dicendo che nel mentre mi dà ragione da una parte, dall'altra mi pongo il problema di che cosa con le tecnologie di fronte a questo grande problema della legalità e della fede pubblica, chi la garantisce, con quali costi, a chi si transano, quanto al cliente, quanto sulle spalle del professionista. Siamo così sicuri che l'evoluzione della tecnologia non ci obblighi a ripensare queste cose? Caro Alberto, tu che dici? Ah, dico che un modello basato sui criteri della blockchain, che è una distribuzione della catena di garanzie appunto su un processo assolutamente trasparente, secondo me è una bella evoluzione di questo modello. Io sono d'accordo con il notaio a dire che lo Stato deve dare in outsourcing cose che non sa fare, assolutamente, infatti i notaio sono interpretati così, se volete ante litteram proprio dei gestori privati di interesse pubblico e di garanzia, però la tecnologia oggi è in grado di sostituirne gran parte del lavoro, meno quello educativo, che secondo me, ripeto, secondo me invece è molto importante. Sono grandi educatori, perché proprio perché sono responsabili in solido e personalmente, sono grandi educatori del diritto societario. Quindi da questo punto di vista, per me, io ho sempre trovato il colloquio, la presenza di notai negli atti societari, fonte di apprendimento e fonte di ordine e di presenza dello Stato. Devo dire, almeno questo va riconosciuto, e quel valore costa, dal mio punto di vista, troppo poco per quello che vale, no? Quindi dal mio punto di vista quelle parcelle sono assolutamente giustificate. Mentre la firma in calce messa all'atto burocratico, è il monogramma più caro dopo quello di Picasso. Comunque abbiamo, come avete visto, tentato di affrontare questa questione per far emergere gli argomenti. Sì, Eliana, prego. L'ultima cosa, la tecnologia, il sistema di trasferimento immobiliare, il Land Registry inglese, nel 2004 ha introdotto l'e-conveyancing, quindi l'electronic conveyancing, dicendo miglior sistema al mondo perché la tecnologia sostituisce, come dice lei, come tutti pensano, No, io non ho detto sostituisce, io dico che intacca. No, ok, 2004 lo introduce, 2011 lo abolisce, lo abbandona, riconoscendo espressamente che è stato un fallimento pieno, che ha portato alla dispersione di 41 milioni di sterline per lo Stato, quindi beni di tutti, e dice ironicamente, come sono gli inglesi secondo me, ma poi sai che c'è? Ma forse questo e-conveyancing non è poi così tanto buono, torniamo ai vecchi sistemi, cosa che mi ha fatto morire da ridere, francamente. La devo correggere, nel senso che non erano milioni, ma erano miliardi di sterline. Detto questo, anche in quel caso mi tocca ripetere che il problema in quel caso anche era la bolla immobiliare. Cioè era la potenza degli interessi per valutazioni dell'immobiliare che non avevano riscontro in un mercato sano. E non era la tecnologia, era il conflitto di interesse. Il problema era il conflitto di interesse. Quindi, siccome so di che cosa sta parlando, perché me ne sono proprio occupato, non scambiamo i problemi. Quindi io invito, per così dire, notai e avvocati, invece di regnarsi e basta, poi la gara a insultare Renzi, va bene, d'accordo, mi iscrivetevi. Ma la questione di fondo è guardare che cosa c'è dietro il problema di cui ci stiamo occupando. Nell'immobiliare italiano c'è dietro un grande problema, tra i tanti, e allora però affrontiamo quello, perché temo che altrimenti solo con le prerogative di esclusiva, come al solito, vi dividete, vi picchiate tra di voi, arriverà un altro governo che vi farà una transazione, vi darà un pochino più di questo, un pochino più di quello, ma non affrontiamo il vero grande problema che c'è dietro, che impatta, come ci ricordava Mario prima, i consumatori, perché sono quelli poi quelli ai quali noi dobbiamo innanzitutto guardare. Comunque grazie Alberto Saravalle, grazie Eliana, e torniamo tra poco per la nostra chiusura con la rubrica Non si può fare. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della belva. Eccoci qui tornati, siamo alla chiusura di questa trasmissione del 28 febbraio, San Romano, il giorno dell'inizio dell'avvento della grande ripresa italiana, più 0,1%, non c'è più bisogno di pensare ai 72 miliardi di tasse 2016-2018 di questo governo, tutto è finalmente roseo, laggiù c'è un grande, grande arcobaleno over the rainbow e tutti lo canteremo, avendo il ritratto di Matteo Renzi naturalmente, a cui rendere il devoto omaggio. Sto scherzando, ma non troppo, perché come avete visto problemi ce ne sono tanti, abbiamo tentato anche di affrontare la questione dei notai e degli avvocati, ma come sempre in chiusura, cari compari, ci tocca questa rubrichetta che ricorda a tutti coloro che sono in ascolto, ci sono tante cose ancora da sistemare, tante in questo paese in cui il grande Matteo non ha tempo di occuparsi di tutti i problemi e risolverli automaticamente. Ma caro Alberto, possibile, cosa devo dire ancora su Matteo Renzi perché tu lo difenda? Lo difendi mai? Certo che lo difendo, certo, è un genio, è tutta invidia la tua, caro Oscar, anche la mia, devo dire, sono assolutamente un fuori classe. Denominato un voltoio dal Presidente del Consiglio, figuriamoci, poi gli abbottemi stanno pure sinceri. Sapete? Non è un gufo, qui adesso scegli che uccello da essere. Da gufo, scusami, dal voltoio, però. Beh, non so cosa dirvi, anche gli avvoltoi hanno la loro funzione. Sì, ma hanno la loro funzione nell'ecosistema. Sono come l'Agenzia delle Entrate, spennano i cadaveri, esatto, questo è, esatto. Quindi è inutile, siccome sono statalisti gli amici di Renzi, va bene. Allora, per la rubrica Non si può fare, il nostro Renato Cifarelli oggi mi sa che ci intrattiene anche lui su una questioncina che in cui hanno a che fare coloro che in Italia devono pagare le tasse, mi sbaglio Renato? Sì, buongiorno. E qual è? No, volevo solo dirti una cosa, questa settimana sono stato in Spagna, sono un po' più alti dello 0,1 e ho visto, li ho visti un po' più animati, sì. Però mi sa che hanno fatto le riforme, ma questa è una cattiveria mia. No, oggi parliamo di quanto è facile pagare le tasse. Tu sai che il problema è che sul PIL spagnolo hanno tutti sbagliato, ma hanno sbagliato per difetto, che è una bella cosa, quando si sbaglia per difetto si cresce di più, ma comunque. Basta fare un giro per capire, vabbè, comunque. No, sappiamo tutti che la cosa bella delle tasse è che deve essere facile pagarle, no? Sì, infatti è così come è noto. Quindi è notissimo. E parlando con il commercialista un paio di settimane fa mi faceva presente una cosa che io, che ho una sede sola, non avevo presente, che è quella dell'IRAP. L'IRAP che dicono che tolgono sulla componente lavoro, ma io ci credo poco perché abbiamo già sentito le clausole di salvaguardia. No, so, quest'anno non c'è, dai, adesso non si può negare i fatti. Anche l'anno scorso avevano tolto il 10 meno. Sì, vabbè. Poi retroattivamente te l'hanno rialzata la lista, però vabbè. Allora, l'IRAP, come sapete, come voi sapete, tutti sanno, finanzia la salute. E c'è questo piccolo problema che ogni tanto le regioni sulla sanità falliscono e fanno dei buchi terrificanti. Quindi cosa succede? Che l'IRAP che finanzia appunto la sanità è diversa regione per regione. Già. Se tu hai un'azienda che ha la sede in varie regioni, quindi che ha molti uffici distaccati nelle varie regioni italiane, come la calcoli? È facilissimo calcolarla, perché basta che tu tieni gli oneri di personale e tutti gli oneri accessori del personale, poi ci sarebbe anche da capire quelli che vanno dentro all'IRAP o non vanno dentro all'IRAP, separati all'interno della tua contabilità, alla fine dell'anno prendi gli oneri regione per regione, su ognuno calcoli la quota IRAP relativa a quella regione, poi A tutto quello unisci il misturone dell'IRAP che, come sappiamo, prende dentro gli interessi, l'utile dell'azienda, alcune spese sono diverse come fiscalità rispetto all'ILOR, eccetera, eccetera. E quindi tu ti fai un bel foglio elettronico con le 20 colonne delle regioni, ognuna ci metti dentro, ammesso che tu lo sappia e l'abbiano già deliberato, l'aliquota IRAP, poi metti tutto nel bel misturone e alla fine tiri fuori l'IRAP, che è una cosa semplicissima, cioè. Allora Renato, io ti chiedo, che impressione ti fa, a fronte del fatto che hai appena spiegato che cosa deve fare chi ha attività a cavallo di più regioni per pagare regolarmente l'IRAP, cioè il rischio, per quanto tu sei un buon consulente, è di sbagliare qualche operazione, che impressione ti fa l'Agenzia delle Entrate che è un contribuente dopo 15 anni di lotta in cui riesce a vincere per la cartella erariale impropria che ha dovuto pagare nell'89 e gliela restituiscono, però non gli pagano gli interessi perché l'Agenzia delle Entrate dice non possiamo calcolare gli interessi, mi dicono che ho esaurito il tempo, io dico cosa ne penso io. Mi fa schifo questo Stato ladro! A sabato prossimo.